Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo proprio di economia. Parliamo di economia, di banche e imprese e parliamo con Antonio Patuelli. Buonasera Antonio Patuelli. Buonasera a lei e a tutti loro. Antonio Patuelli è presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, è un banchiere, anche presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, ovviamente, titolare dell'azienda agricola di famiglia, giornalista, oltre che banchiere, e ha scritto questo libro, Banche, Cittadini e Imprese, edito da Rubettino. L'economia non conosce variabili indipendenti, laddove stanno male le imprese stanno male le banche, laddove le forze produttive, le banche e le imprese soffrono, stentano a sopravvivere vivere anche i cittadini e le famiglie. È un libro che raccoglie una serie di analisi, di osservazioni direi molto divulgative sul sistema bancario e soprattutto sull'intreccio tra sistema bancario, sistema produttivo e sistema sociale, soprattutto le famiglie. Ecco, Presidente Patuelli, com'è nata l'idea di mettere sistematicamente, sistematizzare un po' queste semplici cose che però vanno spiegate, perché molto spesso si ha l'impressione, soprattutto nel gli ultimi anni, che le banche e la finanza vadano un po' per conto loro? Le banche e la finanza sono due cose diverse, innanzitutto. Le banche sono dei soggetti giuridici ipervigilati, la finanza è un indistinto che può essere espresso per parte propria anche dalle banche, ma da tantissimi altri tipi di società, da industrie, da imprese, da famiglie e via di questo genere. L'idea viene da un eccesso di banali luoghi comuni che sussistono nell'opinione pubblica, non per volontà o cattiveria di qualcuno, ma innanzitutto perché il più delle volte si confonde l'Italia con l'Europa e l'Europa con il resto del mondo per le vicende della crisi. Io ho avvertito che quando per esempio il presidente della BCE Mario Draghi parla, in Italia si ritiene per un atto automatico, un atto riflesso, che parli per gli italiani. Invece non parla solo per gli italiani, parla per tutta Europa, che la crisi non è nata in Italia, è nata oltre manica e soprattutto oltreoceano, che i problemi delle banche italiane sussistono, ma che in altre parti d'Europa i problemi sono stati assolutamente maggiori, che in Italia lo Stato non ha tirato fuori un euro per aiutare o salvare le banche, mentre in tante altre parti d'Europa ci sono stati salvataggi con mezzi pubblici, che peraltro alterano anche in parte la concorrenza all'interno di un'unione economica europea che sta diventando anche unione bancaria. La somma di tutti questi elementi mi spinge a parlare con il linguaggio che uso normalmente e a scrivere per cercare una riflessione un po' innovativa che corregga i luoghi comuni e apra anche una nuova stagione di riflessioni costruttive e razionali di cui il Paese ha molto bisogno per ritrovare una fiducia che è indispensabile per favorire la ripresa. Ecco, in questa prospettiva possiamo allora dire che le banche hanno un ruolo sicuramente positivo, non solo nell'esprimere fiducia, ma anche nel dare dei mezzi, dare dei capitali, dare dei finanziamenti. Il ruolo delle banche è quello di raccogliere il risparmio e di fare da cinghia di trasmissione tra il risparmio e gli investimenti. Qualcosa però, qualche sabbia negli ingranaggi negli ultimi anni è entrata. Cosa possiamo dire a questo proposito? Possiamo dire innanzitutto che le banche italiane prestano 110 miliardi di euro in più rispetto a quelli che raccolgono. Questo è un dato che abbiamo esaminato e reso noto proprio in questa settimana appena trascorsa e che non è un dato nuovo, è un dato poco conosciuto. Le banche prestano di più di quello che hanno, si debbono approvvigionare a costi più elevati in altri mercati, le banche in Italia vengono schiacciate da due fattori molto rilevanti, uno è una tassazione di più alto livello rispetto alla media europea e l'altro è il fenomeno dello spread. Lo spread è un addizionale di tasso che le banche pagano per avere i risparmi degli italiani e che conseguentemente poi ricade sul tasso dei prestiti. Quando leggo, come anche in questi ultimi giorni, che in Italia il costo del denaro è più alto di un punto rispetto alla Germania, vorrei fare osservare che il tasso dello spread anche negli ultimi giorni era di 1,40 punti più alto della Germania, e se il differenziale di tassi è solo di un punto, significa che le banche operanti in Italia hanno dei costi di struttura più bassi di quelle tedesche e permettono di sopportare 40 centesimi su un punto totale dell'addizionale del costo del denaro che si chiama spread. Certo, ecco, tra l'altro proprio a spread, a rating, lei dedica dei capitoli di questo libro proprio nell'intento di spiegare in maniera molto semplice queste parole che sono entrate nell'uso comune ma che molto spesso sono anche un luogo comune. Ecco. Una delle cose che ricordo con maggiore interesse è che lo spread durante gli anni della lira era stato ben superiore. Eravamo abituati anche ad avere uno spread di 700 punti base. E un aneddoto che racconto è quando Cavour venne nominato Presidente del Consiglio del Regno Sardo Piemontese, di quant'era lo spread? Era di 2500 punti base, ovvero sia del 25%, una delle prime operazioni che Cavour fece, lui se ne intendeva di questa materia, fu cercare di rinegoziare il debito pubblico e riuscì ad avere uno sconto, ma lo sconto sulle banche olandesi che glielo dettero portò ad avere un tasso di 15%, cioè 1500 punti base. Quindi l'Italia ha una lunga esperienza in storia economica relativa allo spread, si è abituata bene nei primi anni dell'euro all'assenza dello spread, che l'aveva prima sempre molto caratterizzata. Quando si è accorta di riavere uno spread, non avendo grande memoria storica, si è sorpresa. Ma lo spread è una cattiva bestia, è come certo. Quei serpentoni che non muoiono mai, no? E bisogna combatterlo quotidianamente con delle buone politiche economiche. Ecco, buone politiche economiche. Le banche indubbiamente hanno pagato anche la crisi, le sofferenze sono cresciute, gli indebiti incagliati sono cresciuti negli ultimi anni, però guardando un po' in prospettiva resta il sistema bancario solido. Lei lo so che lo deve dire anche in virtù della sua carica di presidente dell'ABI, però è un sistema bancario solido e un dei capitoli di questo libro è Banche, Territorio e Crescita. Uno dei punti di forza del sistema bancario è proprio questo collegamento diretto con i territori e quindi con la realtà delle imprese e delle famiglie. Sì, noi siamo in prima linea come banche operanti in Italia in proposito. Fino a 20 anni fa le banche in Italia erano prevalentemente pubbliche. Quando vi era una crisi o una crisetta, le banche ottenevano dei contributi a fondo perduto che venivano pubblicamente definiti fondi di dotazione. Certo. Ora invece da 20 anni le banche sono dei loro azionisti, esclusivamente tutti privati. In Italia circa 5 milioni di azionisti, fra banche popolari, banche di credito cooperativo e SPA bancarie, e tutti questi hanno concorso a fare aumenti di capitale nei momenti, negli anni del bisogno, per fronteggiare le perdite che venivano sulle banche dalle crisi delle imprese. 1.200.000 imprese italiane in crisi che hanno scaricato una parte della loro crisi sulle banche. E ora stiamo vivendo una fase diversa, nel senso che l'Italia, come ha detto il Financial Times, è il paese che nel primo semestre del 2014 sta effettuando i più grandi aumenti di capitale. Questi servono anche per avere indicatori di migliore qualità per i grandi esami che la Banca Centrale Europea pone alle banche di tutta Europa quest'anno, Asset Quality Review, e anche gli stress test di fine anno, ma questi aumenti di capitale serviranno a rafforzare le banche operanti in Italia, le banche italiane, e a dare anche degli indicatori patrimoniali ancora più solidi, che permetteranno ulteriormente nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie, e i sintomi di questi già si vedono, perché nei primi 4 mesi dell'anno vi è stato un incremento di addirittura il 20% di mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni. Mi sembra un segno non trascurabile in una fase in cui non tutte le nubi certamente sono state cancellate. Certo, segni positivi ne abbiamo bisogno, di segni positivi in questa fase. Io dico qualche germoglio, ecco. Indubbiamente. Ecco, uno dei capitoli di questo libro è proprio sul risparmio, che è l'elemento fondamentale su cui si basano le banche, virtù civile degli italiani. È anche questo un luogo comune che però ha un fondamento molto reale, continua ad essere una virtù civile il risparmio. Sicuro, è una virtù civile un po' trascurata, diciamo la verità, nel senso che viene poca spiegata fin dalle scuole di Stato l'importanza dell'educazione finanziaria e al risparmio, così come viene pochissima diffusa l'educazione civica e civile, l'educazione costituzionale, sono tutte cose che vengono trascurate sia dalle emittenti pubbliche sia dalla scuola normalmente, e invece è molto importante, perché è un circuito virtuoso quello della responsabilità civile e della responsabilità economica dell'educazione al risparmio. Devo dire che gli aumenti della tassazione sul risparmio hanno prodotto ora un livello di tassazione che è fra i più alti in Europa, perché si assomma dal 1° di luglio il 26% sulla redditività del risparmio a una piccola patrimoniale, certo, che è lo 0,2%, che viene prelevata tutti gli anni sui patrimoni finanziari degli italiani. Tutto questo è un po' differente, nettamente differente dalla strategia che nel secondo dopoguerra Alcide De Gasperi e Luigi Einaudi alla guida della Repubblica dettero impulso. Allora capivano che bisognava sollecitare il risparmio degli italiani e indirizzarlo verso le banche, perché le banche sono quelle che prestano i quattrini alle imprese. In Italia questa consapevolezza purtroppo non c'è attualmente, a differenza di quanto era più forte 60 anni fa, e anche questo mio piccolo libro serve per avere una maggiore consapevolezza del circolo virtuoso che tiene insieme cittadini, banche e imprese, che se soffrono, soffrono tutte e tre insieme, e se invece non soffrono e svolgono una funzione costruttiva e riescono a svilupparla, a quel punto producono delle utilità collettive. Grazie, allora ricordiamo questo titolo del libro, Banche, cittadini e imprese, grazie ad Antonio Patuelli, presidente dell'ABI. Tra l'altro vorrei sottolineare che i diritti di autore non verranno a me, ma sono stati da me devolute a una istituzione religiosa, una onlus che cura i malati cronici e abbandonati. Grazie anche per questo, allora, ad Antonio Patuelli, grazie di essere stato con noi questa sera. Ricordiamo il libro Banche, cittadini e imprese, edito da Rubettino, sono 125 pagine per 9 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per sabato prossimo.